Voci 2019-1989. La caduta del muro. Libertà versus uguaglianza. Dal laboratorio di scrittura del progetto Voci, libertà e uguaglianza. Quel mattino ho visto il mondo così vicino, come se io lo tenessi tra le mani. Ho visto il mondo nascere e gridare come se prima non avesse la voce. Quel mattino ho visto il ballo di questo secolo, sotto il cielo in cui non si vedono più le aquile di metallo, sotto le case in cui non battono più le porte, le finestre, i cavalli rossi con i loro zoccoli. Quel mattino, per la prima volta, ho visto il tramonto negli occhi della mia vicina, vicina, dall'altro lato. Quel mattino ho visto la pietra che teneva giù le ali diventare sabbia, diventare polvere, diventare l'ombra di un ricordo. Si usa legare la memoria storica a date anniversarie. Nel 1989, 30 anni fa, cadeva il muro di Berlino, il 9 novembre, e da questo, in rapida successione, seguiva la fine della Guerra Fredda, la riunificazione della Germania, la fine dei sistemi comunisti nel mondo. Riflettere su quel periodo significa ragionare su una contrapposizione, quella della Guerra Fredda, che ha diviso il mondo nel secondo dopoguerra per decenni, ma significa anche ragionare sui sistemi politici, sulle ideologie sui quali questi si fondavano. Il blocco occidentale, quello che sostanzialmente ha vinto, era fondato sull'economia capitalistica di mercato, si stringeva attorno alla potenza degli Stati Uniti, aveva una propria alleanza militare, la NATO, o Patto Atlantico, e propugnava regimi di democrazia liberale fondati sulla libertà dell'individuo, anche se poi paesi capitalistici di mercato ovviamente si aggregavano al Patto Atlantico, anche se erano paesi non liberi, anche se erano paesi non democratici. Dall'altra parte, l'altra potenza trionfatrice alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica, che attorno a sé aveva i paesi che aveva liberato durante le operazioni della Seconda Guerra Mondiale e che avevano acquisito sistemi politici socialisti e che si riunivano attorno alla idea di una economia di Stato, di una proprietà collettiva attraverso lo Stato dei mezzi di produzione, su sistemi politici definiti democrazie popolari e su un'alleanza militare, il Patto di Varsavia. Questa contrapposizione ha diviso il mondo per quegli anni, ma riprendeva una divisione precedente. L'Unione Sovietica era stata considerata un simbolo delle idee comuniste e socialiste nel periodo tra le due guerre mondiali, aveva rappresentato uno spauracchio per le potenze capitaliste occidentali che l'avevano contrastata in ogni modo. Ora, l'Unione Sovietica aveva costruito un sistema illiberale fondato su una eguaglianza forzata che l'aveva trasformata rapidamente in un regime di polizia, in un regime dittatoriale a partito unico, in un regime totalitario per certi aspetti. E quindi quando il muro di Berlino è caduto e si è avviato lo sfacelo dell'impero sovietico, il mondo occidentale ha esultato inneggiando al trionfo della libertà. Ma non sono mancati anche in quel momento a caldo interventi che ponevano il problema del rapporto tra libertà e uguaglianza. È vero, nel 1989 ha vinto la libertà individuale, la libertà come concepita dalle democrazie liberali occidentali, ma permaneva il problema dell'eguaglianza. La rivoluzione francese nel 1789 e negli anni successivi aveva sviluppato le idee di democrazia, era stata un elemento motore di tutte le rivoluzioni in Europa sulla base dei principi di libertà e eguaglianza e anche fraternità, che non è soltanto un buon sentimento, ma significa che l'atteggiamento nei confronti della società deve essere collaborativo, cooperativo, solidaristico. Bene, libertà e eguaglianza propugnate dalla Rivoluzione francese, l'Unione Sovietica ha portato alle estreme conseguenze l'idea di eguaglianza, negando per questo la libertà. Ma l'Occidente libero si era posto il problema dell'eguaglianza? In che misura era in grado di risolvere questo mandato della Rivoluzione francese? Dunque la riflessione sulla caduta del muro può essere una riflessione sulle due Germanie, la Germania Germania sconfitta era stata divisa in due parti, una parte occidentale occupata dagli anglo-americani e dai francesi e la parte orientale occupata dall'Unione Sovietica, la fine della contrapposizione in blocchi della Guerra Fredda, che era stata una vera guerra, seppure non guerreggiata nel suo centro. Era una guerra perché era una contrapposizione aspra, che aveva il proprio centro in Europa e una propria periferia, e nelle periferie invece si combatteva, come in Corea, come in Vietnam. Ma si può guardare invece la fine della Guerra Fredda come il riproporsi sulla scena proletaria del rapporto tra libertà e eguaglianza, che era stato posto in modo violento, sbagliato, per mille motivi criticabili prima, ma che ora si riponeva al mondo. E non è un caso, forse, che dopo la fine dell'esperienza sovietica, con il pieno trionfo della libertà occidentale, col pieno dispiegarsi della economia di mercato di tipo capitalistico, le diseguaglianze siano aumentate. Berliners from both east and west linked hands and danced around their liberated territory. The Western authorities stopped counting, and by now, West Berlin. Behind them, people scrambled playfully up and down on the Berlin Wall itself, something they used to be shocked at. Da Norberto Bobbio, Eguaglianza e Libertà. L'eguaglianza, come valore supremo di una convivenza ordinata, felice e civile, e quindi, da un lato, come aspirazione perenne degli uomini viventi in società e dall'altro come tema costante delle ideologie e delle teorie politiche, viene accoppiata spesso con la libertà. come libertà, eguaglianza ha prevalentemente nel linguaggio politico un significato emotivo positivo, cioè disegna qualcosa che si desidera, anche se non mancano ideologie e dottrine autoritarie che pregiano più l'autorità che la libertà, e ideologie e dottrine inegualitarie che pregiano più la diseguaglianza che l'eguaglianza. Ma per quel che riguarda il loro significato descrittivo, mentre rispetto al termine libertà la difficoltà di stabilirlo sta soprattutto nella sua ambiguità, avendo nel linguaggio politico almeno due significati diversi, la difficoltà di stabilire il significato descrittivo di eguaglianza sta soprattutto nella sua indeterminatezza. Cosicché il dire che due enti sono uguali senz'altra determinazione non significa nel linguaggio politico nulla, se non si specifica di quali enti si tratti e rispetto a che cosa siano uguali, cioè se non si sia in grado di rispondere alle due domande: eguaglianza tra chi e eguaglianza in che cosa. La libertà è una qualità o proprietà della persona. L'eguaglianza è puramente e semplicemente un tipo di relazione formale che può essere riempita dei più diversi contenuti. Tanto è vero che mentre X è libero è una proposizione dotata di senso, X è uguale è una proposizione senza senso e anzi rinvia, per acquistare un senso, alla risposta alla domanda uguale a chi. La libertà è in genere un valore per l'uomo in quanto individuo, donde le teorie politiche fautrici della libertà, cioè liberali o libertarie, sono dottrine individualistiche. L'eguaglianza è un valore per l'uomo in quanto ente generico, cioè in quanto un ente appartenente a una determinata classe, che è appunto l'umanità, donde le teorie politiche propugnatrici di eguaglianza o egualitarie tendono a vedere nella società una totalità, di cui occorre considerare quale tipo di rapporti esista o debba essere istituito tra le diverse parti del tutto. L'unico nesso socialmente e politicamente rilevante tra libertà ed eguaglianza si riscontra laddove la libertà viene considerata come ciò in cui gli uomini, o meglio, i membri di un determinato gruppo sociale, sono o debbono essere uguali, donde le caratteristiche dei membri di questo gruppo di essere egualmente liberi o uguali nella libertà. Il progetto Voci 2019 è dedicato a una ricorrenza che riguarda la caduta del muro di Berlino nel 1989, ovvero sia sono 30 anni che il muro di Berlino è caduto. Quindi il progetto Voci affronta questa tematica molto contemporanea con un sottotitolo importante che è La caduta del muro, libertà versus uguaglianza. È la sesta annualità del progetto Voci. Il progetto Voci ha avuto tappe precedenti. Nel 2014 la prima edizione di Voci aveva come oggetto la resistenza, le generazioni legate alla resistenza, e fu realizzato nel chiostro di San Mattia. Nel 2015 ricorreva un altro anniversario che era il 1915-1945-2015. 2016. Il titolo era In età di guerra, 30 anni di guerra civile in Europa. Nel 2016, in questo gioco delle ricorrenze, avevamo 1946, 1976, 2016, il titolo era Obli e amnistie in Italia e in Spagna. Nel 2017 il tema fu i bombardamenti delle città. L'evento finale fu realizzato nella Basilica San Francesco, Bombs Away. L'anno scorso, 2018, prendeva come riferimento il 1938, ovvero sia la legislazione razzista in Italia, ma con l'occhio verso sulla abrogazione, quel che successe dopo l'abrogazione. L'evento finale l'anno scorso si realizzò in sinagoga a Bologna. Quest'anno l'evento finale, il giorno 25 aprile, verrà allestito nei cortili di Palazzo da Curzio. Il progetto Voci 2019 è realizzato, progettato, pensato da tre strutture, tre istituzioni culturali della città: l'Istituto Parri, il Teatro del Pratello, il Mambo. C'è l'apporto fondamentale del Conservatorio Martini di Bologna, in quanto, come negli anni precedenti, gli studenti della Scuola di Musica Applicata del Maestro Zarrelli hanno composto le musiche originali della performance finale. Il progetto ha la fondamentale collaborazione anche con l'Università Primo Levi, e i suoi obiettivi fondamentali sono in pratica due: da una parte fare lavorare insieme soggetti diversi per età e provenienza, ovvero sia studenti di istituti superiori, minori e giovani adulti seguiti dai servizi della giustizia minorile, senior dell'Università Primo Levi, cittadini bolognesi, per praticare una memoria attiva. È il tentativo in tutti questi anni di cercare di uscire dalla retorica delle ricorrenze e per costruire sguardi diversi su tematiche complesse della nostra storia recente e che possono essere spunti di riflessione sul presente. Dal laboratorio di scrittura del progetto Voci, Libertà e Uguaglianza. Dal mio lato del muro c'è un tritacarne di uguaglianza. Dal mio lato del muro un luna park di libertà, caleidoscopio di possibilità, vertigine di capacità. Io guardo le fessure del muro sperando di trovare senso almeno lì, perché il mondo in cui abito è come un bambino che non è stato mai voluto. Do le spalle al muro, ma rimango al centro di una circonferenza. Tutti i punti sono equidistanti da me. Che rischio c'è di perdere l'equilibrio? L'angelo non cade mai. Il diavolo è caduto così basso che non si alza più. L'umano, però, cade e si rialza sempre. Quando cadi, cadi a terra, ma è la terra quella da cui prendi la forza per risalire. Sai che c'è? Rimango qui sdraiato a guardare il mondo senza confini. Il mondo senza confini, ma sempre dentro questo muro. Suddenly you want to go and do something and somebody said, oh no, subsection B, class. was like, you can't do that, you know. And he said, well, why not? You know, I'm a human being and that. And I've got my rights. I said, well, yes, but you're not allowed to do that. He said, well, you know, if it doesn't interfere with anyone, it must be okay. And I said, sorry. Some people have suddenly, I think a lot of people have twigged that this, they've shut themselves in a bit, you know. They've got all these rules for everything. How to live, how to think, how to make music. And it's just not true anymore, you know. They don't work on those rules. Because you can't apply them, because it means then that you're assuming that you know it all. You know, and primitive man, us, and something else, you know. And we don't know it all yet. They're talking about things that are a bit new. They're talking about things which people don't really know too much about yet. And so, you know, people sort of put them down a bit and say, you know, weirdo, psychedelic. Da Il cielo diviso, Christa Wolfe. Quando la bottiglia fu vuota, lasciarono il caffè, che continuava ancora ad essere dominato dalla famiglia dell'uomo zelante. Discesero la via fino a una gran piazza rotonda che, lontana dal traffico, a quell'ora era quasi deserta. Si fermarono ai margini, quasi temessero di offenderne la pace. Una strana luce che sovrastava la piazza, diffusa, fatta di un miscuglio di molti colori, guidò i loro sguardi in alto. Proprio sopra di loro scorreva, in senso obliquo rispetto alla piazza, la linea di confine tra il cielo diurno e notturno. Velami di nubi passavano dalla metà già grigia e notturna del cielo a quella tuttora chiara che svaniva in colorazioni ultraterrestri. Al di sotto o al di sopra c'era una striscia di verde vitreo e nei punti più profondi persino tuttora azzurro. Quel pezzetto di terra su cui essi si trovavano, una mattonella di marciapiede, non più ampia di un metro quadrato, era rivolta verso il lato notturno. Un tempo Le coppie d'amanti, prima di separarsi, cercavano una stella su cui i loro sguardi la sera potessero incontrarsi. Che cosa dobbiamo cercare noi? Il cielo, almeno, non possono dividerlo, disse Manfred beffardo. Il cielo, tutta questa cupola di speranza e di anelito, di amore e di tristezza. Sì, invece, disse lei piano, il cielo è sempre il primo ad essere diviso. Voci è un progetto di Istituto Parri e Teatro del Pratello, con la collaborazione di Mambo, Conservatorio Giovan Battista Martini, Università Primo Levi e Radio Città Fujiko. I brani letterari sono interpretati da Maddalena Pasini, regia e montaggio Alessandro Canella.